7. Ascolta e controlla. 1. Solo pochi giorni fa seppi che cosa era accaduto a Giovanni. 2. Loro andarono al casinò, non vinsero niente, anzi, persero un sacco di soldi. 3. Sfortunatamente non risolsero il problema. 4. Quella sera noi decidemmo di restare a casa e con noi rimasero anche i nostri figli. 5. Lui disse una cosa buffa e tutti risero a crepapelle. 6. Fortunatamente voi non viveste i terribili anni della guerra.